Italia in controluce. Popolo delle libertà, di lotta e di governo. Questo è il titolo di Italia in controluce, 13 maggio, 13:35. In studio vi parla Daniele Biacchesi. Dunque, la manifestazione del PDL a Brescia contro l'operato della magistratura ha avuto un riflesso diretto anche sulle prime attività del governo a guida Enrico Letta. Nel conclave all'abbazia toscana di Spineto, dopo una lite furibonda, Letta e Alfano hanno trovato un accordo sulla presenza dei ministri nelle piazze e nei talk show televisivi. Ma con ogni probabilità, aggiungo io, è un accordo di facciata, perché le tensioni tra PDL e magistrati potrebbero diventare nelle prossime ore ancora più marcate dopo la requisitoria del PM di Milano Ilda Boccassini al processo Ruby, secondo cui ad Arcore, ha detto pochi minuti fa, c'era un sistema prostitutivo per il piacere di Silvio Berlusconi. Dove deve andare secondo voi il PDL? Di lotta nelle piazze a manifestare contro i magistrati? Di governo a pensare a risolvere i problemi e anche e soprattutto le emergenze del paese? 349-238-6666, i vostri sms naturalmente. Queste sono le domande di oggi. Io mi collego subito con Vincenzo Miglietta, che ha seguito in queste ore le vicende legate alla PDL. Sì Daniele, rispondendo alla tua domanda, direi per il momento in queste ore è più un PDL di governo, nel senso che sotto la brace è sicuramente un fuoco vivo contro i magistrati, quello che sta vivendo, che stanno vivendo i parlamentari del Popolo della Libertà nei confronti dei magistrati di Milano, ma l'atteggiamento di queste ore, di questo inizio settimana, è quello di invitare alla cautela che stanno osservando i parlamentari del Popolo della Libertà di uniti qui nel Palazzo dei Gruppi di Montecitorio. Cautela mi sembra mostrata anche dal vice premier Alfano, intervenuto poco fa in conferenza stampa al termine della due giorni in Toscana. Alfano ha confermato che i ministri del PDL non parteciperanno, come tutti i ministri d'altronde, alle future manifestazioni. Ha anche detto che Berlusconi è stato comunque responsabile nel suo intervento di Brescia, ma come dicevamo l'attenzione del PDL in queste ore è molto a ciò che andrà a dire ulteriormente e che uscirà fuori dalla requisitoria della Boccassini a Milano. Ma comunque al di là di quanto sta succedendo a Milano, sottolineerei due interventi: quello di Gasparri di questa mattina, che continua a dire: noi sosteniamo con sincerità e lealtà il governo, perché se questo esperimento di difficile riesce, ne gioverà l'Italia. Ed ancora Brunetta più all'attacco: è inaccettabile che una libera manifestazione elettorale, quella di Brescia, organizzata da uno dei partiti più importanti d'Italia, venga sfregiata da un gruppo di teppisti. In tutto ciò, Daniele, da sottolineare la nota di questa mattina di Berlusconi, che interviene e puntualizza una sua frase, quando il Cavaliere sabato si è paragonato nella sua vicenda giudiziaria a quanto successo ad Enzo Tortora. E Berlusconi questa mattina dice: non mi sono paragonato a Tortora, ho solo ricordato con commozione e con rispetto un suo pensiero, che può essere il pensiero di tutti coloro che stanno per essere sottoposti al giudizio di un giudice. Queste le parole di Berlusconi. Quindi, ricapitolando, PDL in queste ore più cauto, in attesa di vedere sicuramente come andrà a finire il processo Ruby. Grazie, cominciamo con i vostri sms. Se fossi Silvio me ne andrei dall'Italia, dice un ascoltatore al 349-238-6666. A mai più arrivederci, in fin dei conti perché stai in una nazione misera e resa ancora più misera dalla politica, dalla magistratura lenta e ingiusta in molti casi? È evidente che il PDL è un partito che cura solo gli interessi di Berlusconi, la politica per loro è solo una copertura, scrive Nicky. C'è un altro ascoltatore che dice e parla soprattutto di quello che è accaduto a Brescia: siccome la chiamata Grillo è la meglio della gioventù, era a Brescia a sputare, picchiare, bruciare bandiere, non abbiamo un bel futuro. Un altro ascoltatore dice che se fosse vero sarebbe Berlusconi l'unica persona in Italia condannata per prostituzione. Forza Boccassini, dice Francesco. Un altro ascoltatore mi ricorda che Penati era un collaboratore di Bersani, e questo è vero, e non capisco perché viene scritto, ma comunque va bene così. In quale altro paese democratico un deputato, penso che Maria Rosaria si riferisca proprio a Berlusconi, celebra i propri processi sulle proprie TV con i suoi giornalisti nelle vesti di PM. Il PDL dovrebbe sciogliersi e cacciare via Berlusconi. Questa così abbastanza inedita. Un altro ascoltatore, vediamo, non si può per faccende private tenere in ostaggio gli italiani, dice Claudio, è diventata una situazione imbarazzante per tutti noi. Chi se ne frega della Boccassini? Questo è un altro ascoltatore che non si firma. Il PDL a Brescia ha dimostrato di essere un'organizzazione eversiva, dice Roberto da Roma, che deve essere chiusa, addirittura i suoi dirigenti arrestati. Vabbè, questi sono gli estremismi da una parte e dall'altra. Io lo leggo, no, naturalmente. E mi collego invece con Raffaella Calanda, che sta seguendo per noi alla Tribunale il processo Ruby. Sì, Daniele, buongiorno. È appena terminata appunto la prima parte della requisitoria del procuratore aggiunto Ilda Boccassini, 4 ore del suo atto d'accusa contro Silvio Berlusconi, ed è la terza volta che Ilda Boccassini si alza in piedi in un'aula del Tribunale di Milano per pronunciare appunto il suo atto d'accusa contro Berlusconi. Prima non c'erano stati i processi SME e Lodo Mondadori, ora il processo Ruby, dove le accuse sono prostituzione minorile e concussione. Due reati per i quali, quando questa sera terminerà la sua requisitoria, chiederà una condanna di sicuro non per pochi anni, perché si tratta di reati molto gravi. Ha cominciato Ilda Boccassini da dove si era interrotto il PM San Germano ormai un mese e mezzo fa, ossia da quel sistema di prostituzione, ha detto, che esisteva ad Ascore per soddisfare il piacere sessuale di Silvio Berlusconi. Questa era stata la parte su cui si era soffermato San Germano prima che ci fossero le varie interruzioni, i legittimi impedimenti, la Cassazione, e da qui è ripartita Ilda Boccassini nel ricostruire la vita di Ruby, nel ricostruire le sue bugie, come quella sull'olio bollente che le era lanciato addosso, come quella della parentela con Mubarak, o come quella ancora, diciamo, della sua vita parallela che si era costruita. Nella seconda parte della sua requisitoria Ilda Boccassini si è poi concentrata sul reato più grave che viene contestato all'ex premier, ossia il reato di concussione, partito proprio da quella telefonata che Berlusconi fece la notte del 27 maggio 2010 in questura, quando Ruby fu fermata, e tutto quel nervosismo e quella serie di comunicazioni che dall'utenza dell'ex premier arrivarono in questura. Tutto questo, secondo la procura, aveva un unico fine, quello di cercare di evitare che dal racconto di Ruby venissero fuori tutto il racconto delle feste di Ascoli, feste in cui Ruby fu portata da minorenne ed Emilio Fede, sottolinea la Boccassini, era perfettamente consapevole del fatto che Ruby fosse una minorenne. Dunque un'accusa, un atto d'accusa molto pesante, anche se molto tecnico. Sono soprattutto i dati, le intercettazioni, le comunicazioni che il PM sta ricostruendo, che proseguirà appunto nel pomeriggio, bene. Si concentrerà appunto che terminerà con la richiesta. Grazie Raffaella Calanda, era in diretta per noi dal Tribunale di Milano. C'era una volta il bel paese, scrive un altro ascoltatore. Come al solito si parla del processo Berlusconi, nel frattempo è caduto in prescrizione una delle accuse di corruzione a Penati. Buon lavoro, dice Luca. E un altro ascoltatore, Damiano, trova vergognoso da pubblico ufficiale che un ministro degli interni possa manifestare contro un'istituzione dello Stato come la giustizia, con tutti i limiti che ha. Queste sono solo alcune delle tantissime vostre risposte alla 349-238-6666. Torniamo domani come sempre sul pezzo, sempre sul fatto del giorno. Un saluto a tutti da Daniele Biacchiesi.